È un tranquillante naturale che ci sballa, che scanna schiangato in una palla, che sballa la testa che va in branda. Io la faccio sua bandiera per non sentire la carta. Se buona non rasca e non lascia polvere di stelle da terra, aria e basta. Pasta fresca, solamente pasta, rinfrescami i pensieri e smuovi la ricetta giusta. E la mia vita scorre dentro una cantina, alla ricerca solo della roba genuina. Quando mi sveglio la mattina fino a sera, una bomba nella testa detonata sta maniera. Grema anche tu, b-boy, grema anche tu se vuoi. La roba fresca piega, quindi chiedila a noi. Abbiamo varietà di profumi da confonderti, ogni tipo di strumento. Se vuoi fonderti, se vuoi fonderti il cervello, benvenuto nel club. Accendimi sta pipa che ho collato col clan. Si accende la magia, inizia l'allegria. Uno sparione fisso che mi tiene compagnia. Se vuoi fonderti il cervello, benvenuto nel club. Accendimi sta pipa che ho collato col clan. Accende la magia, inizia l'allegria. Uno sbarione fisso che mi tiene compagnia. È di fisso, poi mi ritrovo a pedalare come i Flintstone, strafatto come Homer Simpson. Ho il vizio come Mad e Mr. Baba. Sforno impasti presso il cilume da nebbio la tua strada. I miei ragazzi buttano un occhio, non farti mai la tunda se io sono di riabbocco. Sbrocco, se ci piglio la pedra sbocco, ma tiro tipo ciminiera. E dammi una cartina che ti faccio un castello, manco fossi un manovale dello spinello. Fai gara con noi, è già scritto che la perdi. Tiriamo dal ciupanga finché diventiamo verdi. E il parchello è un ospedale da campo, tutti fatti persi con la testa allo sbando. Faccio lo show fatto perso di Maria, perché uno sbarione fisso che mi tiene compagnia. Se vuoi fonderti il cervello, benvenuto nel club. Accendimi sta pipa che ho collato col clan. Si accende la magia, inizia l'allegria. Uno sbarione fisso che mi tiene compagnia. Se vuoi fonderti il cervello, benvenuto nel club. Accendimi sta pipa che ho collato col clan. Si accende la magia, inizia l'allegria. Uno sbarione fisso che mi tiene compagnia. Non mi sei. Senti? Io tiro così forte che mi fanno i complimenti. Do colpi violenti nel tubo catodico. Impugno il microfonico per far sballare il fonico. Ho gli amici miei che fanno andare in manda. Si aggiunge un altro bro e si fa la trianza. Avanza, una botta che gira. Fisso il primo di riabbocco e di pome di sera. Ho 90 anni e i polmoni non reggono. Muoio una volta al giorno appena i bro me l'accendono. I sintomi, sento che divento scemo. Ogni giorno che passa ricordo sempre meno. Benvenuto nel club. Accendimi sta pipa che ho collato col clan. Si accende la magia, inizia l'allegria. Uno sparione fisso che mi tiene compagnia. Se vuoi fonderti il cervello, benvenuto nel club. Accendimi sta pipa che ho collato col clan. Si accende la magia, inizia l'allegria. Uno sparione fisso che mi tiene compagnia.